senti? Lo senti? Lo senti? È lui. È infallibile. È irrinunciabile. È puntuale. Ogni settimana. Sì, sto parlando di lui. Sto parlando del motivo per cui tutti noi siamo al mondo. Per cui tutti noi lunedì ce la facciamo a su scuola, no, no. Eh? Cos'hai scritto lì? Ma che sei? Cos'hai scritto lì? Sciopero. Ah, c'è lo sciopero. Sciopero dei capretti. Lo sciopero è generale. O forse anche solo personale, non importa. Tanto oggi è venerdì. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Bentornati a venerdì. Ma quanti venerdì ci sono? Sempre quanti venerdì ci sono nell'anno? Nell'anno ci sono 60 venerdì. Sì, sono tanti. Pensa, anzi, facciamo così. Ti ricordi alla fine di Message in a Battle che diceva un numero X di volte? Ok, adesso noi diciamo 60 volte venerdì. Ma no, ma tu sei impazzito. Cominciamo no. Adesso. No, venerdì. Kappa. Io ci tengo. Venerdì. Ci tengo al contratto. Venerdì, sono tre. Venerdì. No, dai, Kappa, dai. Non, venerdì. 60 volte così. Vabbè, ma oggi venerdì. È un venerdì un po' diverso dal solito. Un venerdì caldo, perché c'è pure lo sciopero. Infatti, generale. Sì, lo sciopero, noi siamo qui a lavorare. Vabbè, ma noi non abbiamo mica un sindacato che ci para il culo, scusa. Piuttosto su Facebook chiedono a gran voce notizie di Tito, aggredito giorni fa da un cagnone cattivo. Come sta? Sentilo come sta. Beh, sempre spaventato, poverino. Ma spaventato, ma ce l'ha solo con me, capito? Non mi fa più floppa floppa, mi fa solo geure geure. Spiega meglio, sennò qua sembra che stiamo a dare i numeri. Come? Cosa c'è da spiegare? Floppa floppa, floppa sarebbe quando mi lecca, no? Che mi dai i bacini. È chapeau quando è chapeau. Vabbè, quando non è chapeau, quindi quando non è floppa floppa, chapeau. Diventa geure geure. Geure geure, cosa te lo devo spiegare? Vabbè, no, certo. Spielberg ha fatto anche un film sull'argomento. Steven Spielberg presents directed by Steven Spielberg. Il problema qui per recuperare col mio cane è solo uno. Cosa faccio? Denuncio il padrone del cane assassino o mi vendico direttamente? Ma cosa c'entra col recupero del rapporto intanto, con Tito? Ma intanto faccio giustizia. Poi come vorresti vendicarti? Scusa. Non lo so, polpette avvelenate. Al cane? No, al padrone. Come gliela fai mangiare la polpetta al padrone? Ma è un cuoco, lui fa anche le tagliatelle fatte a mano, così. Siccome è un po' violento e rumoroso nel condominio... Sì. Per farsi perdonare dai coinquilini. Fa da mangiare a tutti. No, porta delle tagliatelle fatte in casa. Io gli do le polpette. Cambio. Uno più uno. Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Oh, Ioris, sai cosa è successo? No. Di Tito. Tito il cane. Sì, sì, no, non so che è successo. È il titolo, che è il cane di Kappa e Drago, no? Sì. È il cane di Chiedo Asilo. Bellissimo, troppo simpatico. No, è stato aggredito. No. È stato aggredito da un altro cane, eh? No. Ma così, una specie di tentata esecuzione. Ma... Ah, guarda, mi stai spaventando. No, beh. Adesso l'ho ammazzato, per no. Allora, questo cane, l'aggressore, ha già ammazzato due altri cani. È stato già denunciato il padrone. E questo è un cane pericoloso. Tito è scioccato, è irriconoscibile. Ma chi è questo? Un cane killer? Non lo so, ha già ammazzato due cani veramente. E scusi, ma che fai in giro da solo sto cane? No, va col padrone, il padrone è un incosciente, no? Allora, quindi, hai capito, Tito, piccolo cane, è stato aggredito da un grande cane cattivo con un padrone incosciente e adesso è scioccato. E qui non si può rimanere indifferenti, no? Appunto. Bisogna fare una denuncia. Vai a fare l'esposto ai carabinieri, no? No, anzi, prima, meglio, vai al pronto soccorso, che lì, lì vedono cosa è successo al pronto soccorso veterinario, no? Per gli animali. Così mi danno un certificato sì, ma... sulle conseguenze. Poi, in un secondo momento, ti rechi dai carabinieri e o alla polizia. No, a fare cosa? Un'altra denuncia. A fare la denuncia, no? Per dire, oh, è qui è successo questo e questo, qui c'è carta canta, no? Ma ho capito, ma la denuncia che dobbiamo fare? Al cane o al padrone? Ma no, al cane è incapace di intendere di volere, no? Ah. Non solo perché è un cane che ha ammazzato due cani, è un cane disturbato, no? Ascolta. E il proprietà si fa all'uomo, no? Lei è il proprietario del cane? Sì, e lei è denunciato. Perché il suo cane è un cane. No, oh, che brutto parola, denunciato, carabinieri. Ma Alberto, ma che dici? Ma perché? Tu perché vuoi fare questo? Perché? Vuoi mandare nei casini al padrone del cane? Certo, perché si fa così, si fa. E allora, che fai? Andiamo dai carabinieri per mandarlo nei casini? E noi andiamo dai pompieri? Cioè. Andiamo a casa sua a prenderlo. Ma chi? Il cane? Al padrone. Il cane meglio che non si fa trovare, perché sennò fa la stessa fine del padrone. Ma visto che il cane non ci ha colpa. Ma quale fine? Qui per adesso non c'è. Qui se c'è il cane. Ah, non hai capito? Andiamo a citofonare al padrone. Cosa diciamo? Che denunciata, no? Lì arriva la raccomandata con cosa il tutto che gli ritorna. Facciamo, no? Non cosa gli diciamo. Io non devo dire niente. E come facciamo? Cosa vuol dire? Che facciamo? Prendo una mazza e ce la spacco in destra. Ma no, ma questa è l'aggressione, no? Qui, ma no, non puoi. Allora, istintivamente io ti dico, sì, se lo merita una botta in testa, ma bisogna rispettare la legge, no? Bisogna seguire l'iter burocratico. Quindi, pronto soccorso, e polizia e o carabinieri, denuncia, esposto, aspettiamo a vedere. Ma quale esposto? Beh, ma che stai dicendo esposto? Ma che dici? Ma che cosa io se vuoi proprio stessa adesso, mo? Entro sera mi prendo la maschera e vado a. Mi dici dove abito, vado là e faccio il mio mestiere. Ma quale mestiere? Se lo spacco in fronte, no? Ma quale mestiere? Poi con la maschera, perché. E gli faccio tutti i graffi che gli ha fatto a Tito, glieli faccio uguale a lui. Ma tu stai parlando di aggressione, tu vuoi mettergli le mani addosso? Perché quell'altra che cos'è? Una giocata, Ho capito, ma uno denuncia, no? Non è che siccome siamo tutti. Quello è un assassino, siamo tutti assassini? No, il cane dire. Non c'ha colpa, la colpa ce l'ha il padrone. Se lo andiamo a denunciare non succede niente. Quello è ancora in giro con il cane normale. Beh, perché tu... che io gli spacco un braccio, no, che non lo può portare neanche più in giro il cane. No, vuoi attenzione, non diciamo cose che poi dopo. No, io mi faccio bene, io sto male, che tipo sta male. E allora a me non me ne frega, perché Tito sta male e io prendo una maschera e vado a casa di questo e quello che trovi glielo spacca addosso. Ma la maschera per non farti riconoscere, è già. Certo. Ho capito, a parte il fatto che già fai una cosa che non dovresti, ma poi ti riconoscono comunque, no? Tipo dalle scarpe, le scarpe sono le scarpe, no? Ognuno ha le sue scarpe, è come il DNA, no? E qui c'è le scarpe di Yoles. Albe, sai che possiamo fare? Tu mi vai a comprare un bel paio di scarpe, sai le Adidas, quelle belle con le gomme dentro che rimbalzi quando cammini, grigi, metallizzate, bellissime. No, che gomma dentro, che metallizzato. 300, poi... 400 euro questo, no? Appunto, cosa faccio? Io ti compro le scarpe, così poi tu puoi delinquere? No, quelle le uso troppo. Che faccio? Vado con le mie scarpe, vado là, spacco un po' di roba in testa a questo qua. E se qualcuno mi vede che ho le scarpe mie, quelle rotte e bucate, quando arrivo a casa le metto in un sacchetto e le butto. Perché quelle nuove, no? E poi c'è quelle che ho comprato io. Bravo. E già, perché io, oltre a spendere 300-400 euro, poi dopo sono coinvolto, no? Perfetto, poi io spendo 300-400 euro e poi sono coinvolto nella faccenda, no? E allora? E quindi questi qui magari mi denunciano, no? Ma che denuncia, beh, ma allora ci capiamo io e te. No, forse ho capito, questi mi spaccano la faccia allora. Oh, State ascoltando un programma offerto da Wunderwaffer. Sentite la mia calda voce che vi invita a trascorrere il venerdì con me qui all'asilo. Quando tutti vanno a casa, l'asilo resta vuoto e incustodito. Chi ha scritto questo testo non sa che la metrica è importante. Tutto buio, agna, è venerdì. Grazie a Carmelo Lauricella, Laura Faggin, Pietro Lacorte, Salvatore Iorio, Alberto Caserini, yeah. Guido Bertolotti, Venerdì. Chiara Mignemi. It looks like just a telefunken U47.